legge già da un po'. L'estate gira in un ventilatore, la luce il contatore. Questione di due ore volo via e non ci penso più, però lo sai che c'è. Vorrei solo una notte da buttare insieme a te. Non lo so come mai voglio dare di matto, senza paura come il lascio di una scarpa tra le grinfie di un gatto. Caccio a Ferragosto che non si scioglie mai, c'è un cuore sotto costo, ci cascherai. E già lo so, e già lo sai. Due, tre libri, anche la maschera. Le pinne non le trovo, ma vabbè. Lo spazzolino, il tuo caricatore, e chiamo l'ascensore. Le piante dal portiere, volo via per non tornare più. A meno che non scelgo di mandare tutto all'aria insieme a te. Non lo so mai voglio dare di matto, senza paura come il lascio di una scarpa tra le grinfie di un gatto. Ghiaccio a Ferragosto che non si scioglie mai, c'è un cuore sotto costo, ci cascherai. E già lo so, e già lo sai. Invece sto qui fermo in coda, mentre fischietto ancora, ancora. E mi si è accesa anche una spia, e c'è un cretino che mi suona. Un orizzonte di eco mostri e già mi manca casa mia.